Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo questa sera la nostra campagna sulla sicurezza stradale. Ricordo a voi tutti come ogni volta i numeri. Ogni anno ci sono 200.000 incidenti sulle strade italiane con 300.000 feriti, 4.000 morti e 30 miliardi di costi sanitari. Insomma, una guerra che bisogna fermare o perlomeno rallentare. Siamo alla quinta puntata che dedichiamo a questo tema. Abbiamo parlato di veicoli intelligenti, cioè di come si possono rendere più sicure le automobili, per esempio mettendole in grado di reagire a un imprevisto con una frenata automatica. Abbiamo parlato di viabilità intelligente, cioè di come sia possibile far sì che i veicoli, parlandosi tra loro, possano coordinarsi per evitare ingorghi e anche magari incidenti, tamponamenti a catena. Ma mentre pensiamo a queste soluzioni così avanzate, tendiamo a dimenticare che per varie ragioni noi abbiamo disseminato i bordi delle strade di tutta una serie di infrastrutture accessorie, dai guardrail ai cartelli autostradali, che in molti casi finiscono per rappresentare un pericolo aggiuntivo. Ne parliamo con il professor Salvatore Leonardo Nardi, docente di costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti dell'Università di Catania e fondatore del DIS, tra i fondatori del DIS, che è il Centro Nazionale di Ricerca sulla Sicurezza Stradale. Buonasera Leonardi. Buonasera Melis. Dunque, lei si occupa di sicurezza stradale avanzata, di come in pratica rendere meno pericoloso tutto quello che sta intorno alle strade sulle quali viaggiamo. Ci fa qualche esempio? Esattamente. Dobbiamo distinguere fondamentalmente due aspetti di questa sicurezza avanzata. Un aspetto è legato proprio a materiali innovativi che possono essere utilizzati per creare dei dispositivi prevalentemente in ambito urbano meno pericolosi per le diverse tipologie di utenti. E in secondo luogo dobbiamo parlare di sicurezza avanzata mettendo in conto le esigenze di una categoria di utenti, i motociclisti, che vengono normalmente purtroppo trascurate tra l'altro, sì. Categoria particolarmente debole in questo senso, perché il motociclista non ha una carrozzeria intorno che lo protegge. Ecco, allora partiamo comunque dal primo punto. Sì, come stavo accennando poc'anzi, è legato alla possibilità di impiegare materiali innovativi provenienti anche dal riciclaggio di materiale esausto. Mi sto riferendo alla gomma che può essere tranquillamente riciclata dai pneumatici. Dagli pneumatici, è qualcosa di cui abbiamo accennato nella prima puntata dedicata a questo tema della sicurezza stradale. Quindi il palo del cartello stradale, no? Sì, qualunque dispositivo che regga appunto un cartello stradale, un semaforo o un palo o un dispositivo illuminotecnico può essere realizzato con materiale a deformabilità controllata, in grado cioè di assorbire esso stesso le sollecitazioni, sgravandole dal malcapitato utente che dovesse appunto urtare. È banale, ma voi dite, noi facciamo dei pali di gomma, diciamo così, elastici, e questi assorbono buona parte dell'energia dell'urto. Parliamo, abbiamo detto, di tutto quello che sostiene qualcosa, semafori, cartelli, ma poi ci sono, non so, mi vengono in mente i panettoni. Io ho un amico che perse la vita, tra l'altro motociclista, e poi ci arriviamo sbattendo la testa su uno di questi panettoni di cemento, perché poi sono due materiali che regnano, no? Il metallo da una parte e poi un po' di calcestruzzo, pensiamo alle barriere autostradali. Esattamente, molti elementi di cosiddetto arredo urbano, compresi questi panettoni, potrebbero mantenere la loro funzione di dissuasore con materiali molto più flessibili, quindi meno rigidi e meno impattanti dal punto di vista della sicurezza. Ecco, questi materiali però attualmente non si vedono utilizzati, non so se da qualche parte del mondo già si usano. Sì, dico, negli Stati Uniti già siamo oltre la fase di sperimentazione, già sono applicati quotidianamente, se così posso dire. In Europa si stanno sperimentando, in Italia ancora siamo, come spesso purtroppo accade, un po' un fanalino di coda per questi. Ecco, ma perché siamo un fanalino di coda? Mi pare di aver capito che da noi manca proprio, diciamo, la normativa necessaria, o comunque c'è un problema di omologazione. Esattamente, perché questi dispositivi di protezione dei margini stradali devono essere omologati mediante prove di crash, che ad oggi vengono effettuate solo su alcune tipologie di barriere, queste metalliche e queste in calcestruzzo di cui dicevamo prima, e con veicoli soltanto di due tipologie, mezzi pesanti e autovetture. E quindi siamo arrivati al secondo punto, questo incredibile buco normativo, regolamentatorio sulla sicurezza stradale per quanto riguarda i motociclisti. Cioè lei sta dicendo che tutto quello, anche i dispositivi di sicurezza come i guardrail, vengono testati, si va a vedere con dei crash test come si comportano in situazioni reali, ma questi crash test neanche si fanno per le due ruote. Esatto, non si fanno non per cattiva volontà, ma anche proprio perché la normativa non li prevede in alcun modo. Oggi, ripeto, una barriera viene testata solo facendo urtare contro di essa dei mezzi tipo autobus, camion o anche le normali autovetture. E qual è il risultato di questa mancanza? Il risultato quindi fondamentale è che le barriere attualmente presenti, omologate e che vanno benissimo per possono andare benissimo per queste tipologie di mezzi, ovvero i mezzi pesanti, le automobili. Tipo il guardrail per intendersi, per esempio. Metallici, quelli ormai comunemente presenti nelle nostre strade, quindi vanno bene per le vetture a due ruote e per i mezzi pesanti, ma diventano ostacoli rigidissimi per i motocicli che urtando appunto hanno la peggio e non riescono a deformare così come fanno i mezzi pesanti o le autovetture. Essendo più leggeri trovano insomma una resistenza maggiore, ma poi anche spesso una forma di questi oggetti completamente sballata, no? Il guardrail banalmente è messo all'altezza del paraurti di una macchina. Esattamente, questo diciamo è il secondo aspetto, perché ricordiamoci che un motociclo capovolgendosi sulla carreggiata o scivolando, che è un classico, se scivola il motociclo mi preoccupo fino a un certo punto, quando scivola, e scivola pure lui, il centauro va a urtare contro questi pali con effetto spesso di decapitazione, o addirittura quando questo non accade il centauro va a finire dall'altro lato della carreggiata nel caso di barriere a sforzi di traffico, o può cadere dal rilevato nel caso di barriere da bordo laterale, e quindi stiamo parlando di situazioni gravissime e conseguenze gravissime per il motociclista. Per il motociclista ed è veramente incredibile che nemmeno esista, nemmeno sia preso in considerazione dalla normativa questo problema. Sì, però siamo in buona compagnia, cioè nel senso che in buona o cattiva compagnia, nel senso che anche a livello internazionale nessuna normativa prevede oggi dei crash test fatti con mezzi a due ruote, motocicli, ciclomotori o roba del genere per l'appunto. Che, insomma, è veramente incredibile, perché è come se si progettassero, non so, appunto dei parapetti sotto i quali però possono passare dei bambini e cadere dal precipizio. Insomma, è un certo senso il paragone regge. Grazie professor Leonardi, grazie e buon lavoro. Signor Melzi, grazie. Ci fermiamo qui, torneremo ancora su questo tema. Per intanto appuntamento a lunedì.